ci sono questi episodi e che purtroppo vengono sottovalutati, si pensa che sia l'ultimo e quindi non si prendono dei provvedimenti seri. Qui bisogna controllare il territorio, che se ne dica, i politici dicono che bisogna cominciare dalla scuola, educare i bambini, è vero, questo bisogna pur farlo, però secondo me la prima cosa immediata domani mattina dovrebbero sbarcare qui con l'esercito, controllare tutte le strade, controllare i movimenti di tutti i cittadini calabresi, compresi i malavitosi, e rendergli la vita più difficile. E poi il controllo economico, perché il tutto è determinato dai grossi interessi economici.